Le piacevoli notti, libro secondo, di Giovan Francesco Straparola. Quarta favola della dodicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico. A ciò che non si consumasse il tempo in più ragionamenti e le risa più oltre non procedessino, la signora fece motto a Vicenza che con la sua favola l'ordine seguitasse. Ed ella, tutta allegra, in tal modo a dire incominciò. Favola quarta. Da alcuni figlioli che non volsero eseguire il testamento del padre loro. La maggior pazzia che possa fare l'uomo o la donna è questa, cioè aspettare di far bene dopo la morte, perciò che oggidì, o poco o niente, si serva la fede a morti. E questo noi abbiamo provato, che quel poco che ne fu lasciato non l'abbiamo mai potuto conseguire. E questo è processo per causa degli esecutori, i quali, volendo arricchire i ricchi, hanno impoverito i poveri. Siccome nel discorso del mio ragionare intenderete. Dicovi adunque che in Pesaro, città della Romagna, trovavasi un cittadino molto onorato e danaroso, ma tenace nel spendere, e costituito nell'ultimo termine della sua vita, fece il testamento ed ultima sua volontà, per la quale, instituendo i suoi figliuoli, che molti ve n'aveva, eredi universali, gli impose che pagassero molti suoi legati e fidei commessi. E così, morto e sepolto e pianto secondo il costume della patria, si raunarono insieme e consigliaronsi quello si avesse fare dei legati che lasciò il padre per l'anima sua, i quali erano assai ed eccessivi. Con ciò sia cosa che, se mandargli dovessero ad esecuzione, certa cosa è che inghiottivano quasi tutta l'eredità, laonde quella sarebbe loro stata piuttosto di danno che di giovamento alcuno. Consideratosi adunque il tutto, rizzosse il minore di essi fratelli e disse queste parole: «Sappiate, fratelli miei, che gli è più vero, se gli è lecito a dire, che la verità, che se l'anima del Padre nostro è sepolta e condannata nel profondo dell'abisso, vana cosa è pagare i legati per il riposo di lei, imperocché non è redenzione alcuna nell'inferno. Anzi, a quelli che vi entrano non è speranza di uscirne giammai. Ma se egli è nei floridi campi Elisi, dove è perpetuo ed eterno riposo, non ha ella bisogno dei legati, né di fidei commessi. Ma se egli è nel cerchio di mezzo, dove limitatamente si purgano i peccati, è manifesto che poi che saranno purgati, si scioglierà e libererassi al tutto, né alcuna cosa ne gioveranno i legati. Per il che, lasciata da canto l'anima del padre alla divina provvidenza sottoposta, dividiamo la paterna eredità e godiamola ancor noi finché viviamo, siccome l'ha goduta il padre nostro mentre egli visse, a ciò non siano di miglior condizione e morti che gli vivi. Concludo adunque, per questa mia breve novella, che debbiamo far bene mentre viviamo, e non da poi la morte. Con ciò sinché oggidì, sì come dissi nel principio del mio parlare, o poco o niente, si serva la fede ai morti. Fine della storia. Piacque a tutti l'ingegnoso consiglio dell'astuto fratello minore, ma non piacque a Vicenza, a cui la cosa toccava. Ma ciò che ella non rimanesse addolorata, un festevole e dilettoso enimma volse por fine alla sua favola, dicendo: «Con canti vengo e presso te mi pongo, poi sopra il corpo tuo tutto mi stendo, dentro del buco tuo metto il mio longo, e del tuo succo con diletto prendo, e quanto più nel fondo lo perlongo, tanto più mi compiaccio e più mi incendo. Asciutto me ne vo dentro cantando, e tornò fuor pietoso e lacrimando. Dimostra l'enimma la fante, che la mattina per tempo, la sera, va al pozzo per attinger acqua, perciò che nell'andare i secchi stridono, e giunta al pozzo sopra quello si posa, e presa la fune in mano, dentro il pozzo col secchio la pone, e con diletto tragge l'acqua. E quanto più ella manda il secchio al fondo, tanto più l'infiamma traendolo fuori, perciò che acqua più fresca ne attinge, e ponendolo nel pozzo asciutto e traendolo fuori, tace e piange. Gran spasso e diletto prese la brigata del piacevole enimma, né si poteva contener dalle molte risa. Fine della quarta favola della 12ª notte.